Negreira nave adio, lasciai porto seguro, mi comprarono in Bahia. Mãe África, quel che è bianco vale più di quel che è tuo. Mãe África, sei in catene già piegata dall'oblio. I campi raccoglievano il sudore e la mia pelle. La notte ricordavo il mio tamburo di bambù. Mãe África, in questo mondo cerchi un posto anche tu. Mãe África, se io fuggo torno nella mia tribù. Della liberazione si toglie la disperazione, si salva dalla schiavitù. Adesso che ci sei anche tu, non voglio più fuggire via, se vivi accanto a me. Oppresso e umiliato son fuggito verso il sud. La libertà sognata la trovai a Kakulé. Mãe África, nel quilombo dello schiavo Manuel. Mãe África, lungo il fiume trovo la felicità. Canti quando canti nel tuo intreccio di colori, Bahia di tutti i santi, sacro cuore di Gesù. Mãe África, la tua forza è la sce degli orishas. Mãe África, Morena America, ora svegliati, oshalla. Il rec della liberazione ci toglie la disperazione, ci salva dalla schiavitù. Adesso che ci sei anche tu, non voglio più fuggire via, se vivi accanto a me.